Quando la grafica incontra il business, il caso di Fidagel. Nel panorama competitivo del settore alimentare, emergere richiede una combinazione di qualità del prodotto e una strategia di comunicazione efficace. Un esempio significativo è rappresentato da Fidagel, una startup italiana specializzata nel pesce surgelato, che ha saputo distinguersi grazie a un approccio innovativo al branding e al design. La sfida: competere in un mercato dominato dai colossi. Il mercato del pesce surgelato è tradizionalmente dominato da grandi multinazionali con risorse considerevoli. Per una piccola realtà come Fidagel era fondamentale trovare un modo per differenziarsi e attirare l'attenzione dei consumatori, comunicando al contempo la freschezza e la qualità dei propri prodotti. La soluzione: un brand positioning distintivo. Fidagel ha adottato una strategia di brand positioning focalizzata sulla creazione di una nuova categoria nel mercato, il pesce surgelato di alta qualità, paragonabile al fresco. Questo posizionamento è stato supportato da una serie di scelte di design e comunicazioni mirate. Identità visiva accattivante. Il logo e il packaging di Fidagel sono progettati per trasmettere immediatamente l'idea di freschezza e qualità superiore. Colori vivaci, immagini ad alta risoluzione del prodotto hanno contribuito a creare un impatto visivo forte sugli scaffali dei supermercati. Comunicazione trasparente. Le confezioni riportano informazioni dettagliate sulla provenienza del pesce e sui processi di lavorazione, instaurando un rapporto di fiducia con i consumatori attenti alla tracciabilità degli alimenti. Presenza digitale efficace. Un sito web intuitivo e una strategia attiva sui social media hanno permesso a Fidagel di raggiungere un pubblico più ampio, educando i consumatori sui benefici del pesce surgelato di qualità e condividendo ricette e consigli culinari. I risultati: una crescita significativa. Grazie a questa strategia integrata di design e marketing, Fidagel è riuscita a aumentare la visibilità del brand. La distintiva identità visiva ha reso il marchio facilmente riconoscibile, distinguendolo dai concorrenti. Incrementare le vendite. La percezione di alta qualità associata al design del prodotto ha portato a un aumento delle vendite, attirando consumatori disposti a pagare un prezzo premium per un prodotto percepito come superiore. Espandere la presenza sul mercato. Il successo iniziale ha permesso a Fidagel di ampliare la propria distribuzione entrando in nuovi punti vendita e mercati regionali. Lezione appresa: il potere del design nel creare valore. Il caso Fidagel dimostra come una strategia di design ben pianificata possa essere determinante per il successo di un'azienda, anche settori altamente competitivi. Investire nella grafica e nel marketing non solo migliora l'estetica del prodotto, ma può ridefinire la percezione del brand, creando nuove opportunità di crescita e consolidando la posizione sul mercato. E voi, in che modo utilizzate il design per differenziare il vostro prodotto o servizio? Condividete le vostre esperienze nei commenti.